Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Era l'estate del 1968. Avevo 6 anni. Ero in campeggio con i miei genitori e i miei fratelli a Peschici, in un campeggio che ho saputo poi essere del gruppo Fiat. Eravamo felici, ci sentivamo liberi e un po' nomadi. Sono Laura Chirotti, vivo a Roma, ho 50 anni, lavoro in una società di servizi e non sono quasi più andata in campeggio. Ci sono 101 persone, sono di più in realtà, però noi ne abbiamo selezionate 101. 101 persone che hanno deciso di scegliere un episodio della loro vita che in qualche modo raccontasse qualcosa di loro, cioè che li rappresentasse più di altre. Magari non fosse proprio il pezzo più grosso della loro vita, però fosse una piccola storia vissuta da loro quando erano bambini o un pochettino più adulti, anni fa o l'altro ieri. Hanno scelto questo episodio, l'hanno raccontato, ce l'hanno mandato e noi l'abbiamo fatto diventare non solo una storia, ma l'abbiamo fatto diventare una puntata di questo programma e un punto su una mappa, che è il gioco che facciamo ormai da 2 anni, da 2 stagioni di Voi Siete Qui. Una storia in onda tutti i giorni e un puntino su una mappa che trovate sul sito di Radio 24. Vi dicevo, 101 persone che abbiamo scelto, 101 storie che sono state selezionate e sono state infilate in quello che è un ebook, quello che è, sembra veramente un modo di dire da venditore di tappeti, quello che è un tappeto persiano, quello che è un tappeto intarsiato, quello che è un ebook che potete scaricare gratuitamente da ieri, quindi potete farlo anche in questo momento alle 16:10 di un venerdì qualunque di metà giugno, mica tanto qualunque, oggi il 21 giugno è l'inizio dell'estate, adesso inizia tutta la diatriba su no, l'estate inizia un altro giorno, l'estate astrale, l'estate di... vabbè, insomma, comunque sia, oggi 21 giugno potete scaricarvi gratuitamente dal sito di Radio 24, cioè dalla nostra pagina di Voi Siete Qui, ci entrate, in alto a sinistra trovate la ormai ex possibilità di iscriversi al live di giovedì prossimo, dico ex perché i biglietti sono stati, i posti più che biglietti, era gratuito, sono andati esauriti, appena sotto trovate il nuovo ebook con la nuova copertina tutta colorata, ci cliccate sopra passando da narcissus.me, che è diciamo il self-publishing che ci ha dato una mano a pubblicare il nostro libro, sempre in ebook, cioè in versione elettronica, insomma cliccate, passate tramite i vari passaggi che servono per poterselo scaricare e ce l'avete a casa, cioè a casa ce l'avete sul vostro tablet sostanzialmente, perché è in versione ePub, è gratuito, vi ripeto, sono 101 storie, probabilmente le avete già sentite, se ve le siete perse ve le potete rileggere attraverso il sito di Radio 24 alla nostra pagina. Voi siete qui, buongiorno a tutti, sono le 16:11, questo è il penultimo venerdì di diretta di questo programma, la settimana prossima sarà l'ultima di fatto dal vivo e poi ci sarà per tutto il mese di luglio, abbiamo scelto dei temi e abbiamo selezionato i migliori racconti, non i migliori, i racconti che avevano a che fare con quei temi, quindi per tutto luglio comunque saremo in onda come al solito, dalle 16 alle 16:45. Oggi parliamo a proposito di storie selezionate dalle persone che in qualche modo hanno sentivano che le rappresentavano. La storia di Laura racconta di quando da ragazzina, avete sentito anche dall'intro, andava in campeggio insieme ai genitori. Il campeggio, io ho sempre pensato che fosse una cosa dirimente, cioè che tracciava un solco, no? Tra quelli che ci andavano e quelli che non ci andavano e i motivi per cui ci andavano. E quindi ero convinto di fare cominciare questa sorta di diatriba su io ci vado, io non ci vado. Invece sul profilo Facebook del programma sono arrivati solo messaggi entusiastici riguardo al campeggio. Valentina, io e la mia famiglia lo amiamo, sono diversi anni che ci facciamo vita da campeggio. Luca, ogni anno campeggio, libertà è la parola d'ordine. Paola, anche noi, meraviglioso. Irrinunciabile. Cristina, praticamente da quando sono nata fino a 10 anni, poi l'ho riscoperto a 27. 349 238 6666. Se andate in campeggio e lo amate, perché? Se lo odiate, perché? L'estate del 1968, avevo 6 anni. Ero in campeggio con i miei genitori e i miei fratelli a Peschici, in un campeggio che ho saputo poi del gruppo Fiat. Eravamo felici, ci sentivamo liberi e un po' nomadi. Allora chi andava in campeggio rompeva un po' gli schemi, o almeno così ci facevano percepire i nonni e le vecchie zie, un po' stupiti del fatto che un professore universitario girasse con la sua famiglia per il sud Italia in tenda. I miei genitori ci hanno sempre portato con loro, abbiamo viaggiato in lungo e in largo per tutta Italia, e eravamo molto liberi. Avevamo pochi amici perché stavamo sempre in giro, quindi avevamo amici non stanziali. Ci spostavamo con un'Audi giallina che trainava una piccola barca fuori bordo chiamata Calimero. Il campeggio a Peschici c'era molto bello. Sotto le pendici di una montagnola era in parte terrazzato e in parte si dislocava su un terreno abbastanza vicino alla spiaggia. Noi eravamo su quel terreno vicino al mare. Gli ultimi giorni di agosto pioveva. Erano i giorni dei carri armati a Praga. Mi ricordo le foto dei giornali, mi ricordo mio padre, che ieri come oggi leggeva il Corriere della Sera e commentava la notizia con mia madre. Ricordo la gravità della sua voce. Le sue perplessità mi fecero comprendere l'eccezionalità dell'evento, anche se a 6 anni tutto è molto relativo. E intanto continuava a piovere. Piovere. E ancora piovere. Ma non ricordo che a me bambina desse fastidio. Una notte, verso le 5, all'improvviso fummo svegliati dai nostri genitori. Stare in tenda non era più possibile. Iniziava ad essere pericoloso. Ci fecero sedere in macchina, che era parcheggiata un po' più in là. Mi ricordo che noi fratelli avevamo il nostro pigiamino e io e mio fratello più grande protestammo perché non si usciva in pigiama. Evidentemente non avevamo capito la situazione. A un certo punto anche in macchina iniziava ad essere pericoloso. Papà ci fece scendere e tutti e tre noi fratelli scendemmo dalla sua parte, dalla parte di sinistra. Mamma scese a destra invece e fu travolta dal fango e dai detriti. Perse l'equilibrio, si aggrappò da qualche parte dell'auto. Per fortuna sopraggiunse un tedesco con una valigia in mano. Posò la valigia sul cofano della nostra macchina e aiutò mia madre a riemergere dai detriti. Riprese la valigia e si allontanò con la stessa calma con cui si era avvicinato. Ma la valigia non era stata chiusa e tutto il contenuto si sparpagliò nella pioggia e nel fango. Accadde tutto in un attimo. Non ricordo né urla né concitazione, né di mia madre né di nessun altro. Ricordo però solo i capi di abbigliamento che volavano nell'aria come una strana tavolozza di colori. Noi bambini, secondo me, no, non ce ne siamo resi conto, almeno perlomeno io non me ne sono resa conto. Dopo abbiamo un po' capito quando ci dicevano che erano morte delle persone, quando dovevano venire gli elicotteri a prenderci, però eravamo più eccitati forse che spaventati. Dobbiamo la vita di mia mamma, o perlomeno la sua incolumità, a uno sconosciuto angelo tedesco. L'alluvione provocò nel campeggio un morto e vari feriti, portati via con gli elicotteri dei carabinieri. Noi, dopo una decina di giorni, tornammo a casa, a Roma, con la nostra macchina abbastanza integra. Era scivolata verso il mare, ma era stata fermata da un albero di fico. In the early morning rain, with a dollar in my hand, in my heart, in my pockets full of sand. Now the liquor tasted good, and the women on fast. There she goes, my friend. She be rolling now and last. Ho sempre pensato che in fatto di gusti per le vacanze le persone non si dividessero in chi preferisce il mare o la montagna, ma in chi ama il campeggio e chi lo odia. E non credo che ci siano vie di mezzo, cioè non credo che uno possa farsi andare bene una settimana di vacanze in campeggio. O hai scelto di andarci sapendo cosa ti aspetta, oppure finirai per considerarlo un supplizio. I primi ricordi che ho di una vacanza sono quelli di un campeggio a Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo. Avevo 3 anni. I miei avevano comprato una tenda di 80 metri quadri, di quelle con 2 camere, un soggiorno e una cucina separata, roba che con quello che ci paghi per la piazzola vai in albergo una settimana in pensione completa. Di quel periodo ho qualche vago ricordo dell'odore di carne arrosto o delle foto che i miei tengono in una scatola di latta. Ho un ricordo migliore invece dell'estate in campeggio con i miei compagni di liceo. Eravamo in 4, avevamo preso una tenda da 3, di quella forma di igloo. Pensavamo che avremmo dormito poco e che non ci interessava stare comodi, per quello avremmo avuto tempo da vecchi. Avevamo 18 anni, ci mancava un anno di liceo e qualche competenza in fatto di campeggio. Uno di noi, che aveva fatto lo scout, aveva portato un fornellino a gas per cucinare un po' di pasta, ma quello che ci mancava erano i fondamentali: ciabatte per le docce, tappetino da mettere sotto il sacco a pelo, creme protettive. Insomma, è inutile dire, quella vacanza fu un bagno di sangue. Da allora, ogni volta che passo davanti a un campeggio, rallento per guardare dentro e cercare di capire se quelli che li frequentano sono alieni o sono semplicemente persone con gusti diversi dai miei. Ho letto da qualche parte che gli abitanti del nord Europa hanno una vera e propria predilezione per il campeggio, perché passano 10 mesi all'anno chiusi in una casa fredda, scusatemi, per il freddo, e quindi per loro il campeggio è la quintessenza della vita all'aria aperta. Che poi, anche questa cosa della vita all'aria aperta, secondo me è un po' sopravvalutata. Cioè, va bene quando c'hai 10 anni e tua mamma non ti vuole troppo dai piedi, quindi ti invita ad andartene fuori, a giocare, a prendere un po' d'aria. Ma dai 20 anni in su, il concetto di vita all'aria aperta perde significato, no? Voglio dire, perché dovrei andare all'aria aperta se ho 19 o 20 anni, se tutte le cose che voglio fare, giocare ai videogiochi, ascoltare la musica e pomiciare, le faccio al chiuso? Ecco perché ho sempre pensato che quella della vita all'aria aperta fosse una grande ipocrisia. E l'ho pensato anche quando l'estate di diversi anni fa, la mia fidanzata dell'epoca mi chiese di andare in campeggio. Io allora andai a comprare una tenda nuova. Avevo deciso che la mia prima impressione sul campeggio probabilmente era stata prematura, che non gli avevo concesso nemmeno una chance in più dopo quell'estate. Lei voleva il campeggio e campeggio sarebbe stato. Comprata tenda nuova, sacchi a pelo estivi, materassini gonfiabili, fornellino, stoviglie infrangibili, lampada per la notte e soprattutto ciabatte per le docce. Il campeggio era in una pineta sulla costa orientale della Sicilia, nel nulla ma a pochi chilometri da tutto. Era una sorta di comune di amanti della vita all'aria aperta, ovviamente, gestito da fricchettoni olandesi che si erano trasferiti lì 20 anni prima, quando credevano che il mondo sarebbe andato allo sfascio e loro non volevano esserne complici. In questo campeggio si parla inglese, si cucina a turno una volta a settimana e si mangia tutti insieme su lunghi tavoli di legno. Visto che rispetto alle altre la nostra tenda era piccola, ci avevano messi in una posizione privilegiata al limitare della pineta con una splendida vista mare. Peccato che quando siamo arrivati verso le 3 del pomeriggio il sole già ci batteva da almeno 6 ore e la temperatura non prometteva nulla di buono. Dopo aver montato la tenda sono andato verso le docce ma ho scoperto che servivano i gettoni e che la cassa era chiusa fino alle 7 perché prima tutti riposavano. Mi sono diretto verso lo spaccio per prendere qualcosa di fresco e ci ho trovato solo bevande scandinave alla mela o al ciclamino e quindi ho declinato. Sono tornato verso la tenda, mi sono dovuto chinare per aprire la zip dell'ingresso e ho cominciato a temere di avere sbagliato. Ho cominciato a pensare che stavo invecchiando e già questo mi faceva arrabbiare e soprattutto che non ce l'avrei mai fatta per 2 settimane ad abbassarmi ogni volta che dovevo entrare in casa mia. Mi sono malamente pulito i piedi dalla sabbia prima di entrare, ma non è bastato. Appena dentro mi sono accorto che l'interno della tenda era già pieno di sabbia, che si era infilata anche nei sacchi a pelo. Ma la cosa più terribile era che non c'era verso di buttarla fuori, se non capovolgendo tutta la tenda sottosopra. Mi sono seduto per cercare di ragionare e non farmi prendere dal panico, ma il panico mi ha assalito quando nel silenzio delle 4 del pomeriggio ho sentito il vicino di tenda russare come un San Bernardo raffreddato. Sono uscito, ho smontato tutto e siamo andati in albergo. Grande fiera degli amanti del campeggio, direi, al 349-238-6666 e anche al profilo Facebook, anche su Twitter riceviamo messaggi di chi dice che passerebbe la vita in campeggio. Ce n'è solo uno che scrive che non gli piace il campeggio perché si dorme male, fosse solo quello. 349-238-6666, cioè, erano tanti anni fa quando c'è andata Laura in un campeggio e pare non esserci più tornata. Pronto Laura? Sì, ciao. Ciao, come stai? Bene. Dove ti trovi, Laura? Io mi trovo a Roma e mi trovo al lavoro. Che lavoro fai, se si può dire? Lavoro in una società di servizi che gestisce archivi e biblioteche. Cioè, quindi... Pronto? Sì, scusami, stavo riflettendo sul lavoro perché stavo mettendo insieme i pezzi. Gestite biblioteche e archivi in che modo? Per conto terzi, sì. Ok, quindi biblioteche e archivi di altri. Sì, sì. Quindi mettiamo a posto che gestiamo, sì. E in quanti siete? Siamo 6 e poi ci abbiamo esterni. Ma è una società di cui fai parte attivamente o sei assunta? Sì, è una società di cui faccio parte, sì. Cioè l'hai fondata? No, non l'ho fondata, ci sono entrata dopo. Sei socia. Non ne vuoi parlare tanto però, Laura, mi sembra che Non ti piace parlarne? No, so parlare, figurati. Però sono qui, cioè non mi piace parlare perché ci sono al lavoro, insomma. Ah, ok. Cioè, quindi sei alla scrivania sono proprio? Sono da un cliente, sì. Ah, okay. Sei nel bagno? Più o meno. Cioè, hai detto, scusi, è un collegamento con Radio 24, arrivo subito. Sì. Quanto tempo hai passato? Mi rinfrescavi la memoria da quel... Era il 68, giusto? Quindi... Era il 68, io avevo 6 anni. Quindi erano... Ah, perché? Perché? Prova a fare i calcoli in diretta, perché? 68, 63, 40, 50... Io avevo 6 anni, 68... 45 anni. Sì. 45 anni, esattamente. Sì. Tra l'altro è arrivato un messaggio, Renato, che dice «Anch'io ero esattamente in quel campeggio nel 68, da metà agosto a metà settembre, avevo 11 anni. Voi invece in che periodo c'eravate?» Era... Era quello. Era quello, più o meno era quello. Alla fine di agosto. Era quello. Senti, ma questa alluvione fu una, cioè fu un'alluvione di fatto, fu una cosa grossa. Fu una cosa grossa, sì, sì, perché ci furono 2 morti, perché fu evacuato il campeggio e noi andammo in una casa di fortuna e perché tutte le tende furono travolte dal fango, eccetera. Quindi ad esempio la vostra tenda la perdeste? Sì, tutto, non solo la tenda, tutto quello che c'era, sì. E quindi andate... La macchina andò in mare. No, non andò in mare, la macchina, scusa, si fermò... La pianta di fico la fermò, ok. Quindi sì. Quella fu salvata. E voi andaste in una casa, cioè affittaste una casa? O? No, poi fummo ospitati, perché ci fu una grande solidarietà del paese, di tutti, fummo ospitati da della gente del posto in una stanza di fortuna per una decina di giorni finché non fu recuperata la macchina. Anche la barca fu recuperata. Ah sì? Quindi tornaste a casa con la macchina e la barca, tutto regolare? Macchina, barca, senza tenda, senza bagagli. Scusami, nel tuo ricordo però, nel tuo racconto, c'è proprio c'è il punto di vista di un bambino, di fatto, che non percepisce in maniera totale, no, quello che è successo, il pericolo che è stato. Dunque, quando noi siamo scappati, ci hanno portato fuori dalla tenda, ci hanno fatto mettere in macchina, eccetera, io non mi ricordo di aver percepito paura, assolutamente. Mm. Quando invece poi siamo andati in una specie di rifugio, in un ristorante dell'albergo, dove c'era rifugiata tanta altra gente, lì percepivi, perché c'erano tanti altri adulti, magari anche angosciati, allora lì abbiamo iniziato a percepire che era successo qualcosa di strano. Ah, certo, cioè nell'aria c'era proprio un'atmosfera cupa. C'era un'atmosfera strana anche perché era tutto bloccato, cioè non c'erano più contatti con l'esterno, c'era nata la strada che collegava con l'esterno, quindi c'era isolamento, c'era angoscia e non tutti i genitori erano bravi a non trasmetterla. Laura, dove vai in vacanza adesso? Io vado in montagna ma anche al mare, però diciamo che vado in barca al mare, se no vado in montagna. Ok, mi dici qual è stata la biblioteca più bella in cui hai lavorato, quella che avete gestito, la più affascinante, con i libri più belli? Beh, io ho lavorato alla Biblioteca dei Musei Vaticani, che è sicuramente una biblioteca molto bella, soprattutto all'interno, il contesto è molto bello, i libri sono tutti di storia dell'arte, e però le biblioteche più belle io non ci ho lavorato, ci ho studiato. La Biblioteca Angelica a Roma, la Biblioteca Corsini, anche bellissima. Laura, ti lascio andare perché sei da un cliente e io devo mandare la borsa, però hai la voce di una ragazzina, sembri una sedicenne. Ti ringrazio per la storia, immagino tu non possa venire al live di giovedì prossimo, ma è come se fossi con noi. Senz'altro. Come se lo fossi. Okay. Ciao Laura, grazie mille. Ciao, buona giornata. Voi siete qui. È abbastanza bardata Laura nella foto che ci ha mandato. Ha su una cuffia, c'è un cappello in testa, degli occhiali da sole, un giubbotto pesante, pantaloni, galosce antineve, antiacqua, scarponi. E uno dice, vabbè, sembra vestita come una fuori di testa. Non lo è in realtà, perché il contesto è quello montanaro, come ci raccontava prima, che va o in barca o in montagna. E non solo è in montagna, ma direi che è proprio in cima a una montagna. Campeggio. Sostantivo maschile. Soggiorno all'aperto, a scopo ricreativo o turistico, in attendamenti. Cosa sono gli attendamenti? Va bene. Soggiorno all'aperto, a scopo ricreativo o turistico, in attendamenti, roulotte o simili. Campeggio libero. L'attendamento in zone non specificatamente attrezzate a tale scopo. Area dotata di attrezzature igieniche e servizi vari, ove si può soggiornare in tende o roulotte. Etimo derivato di campeggiare, data 1924. Questa è un po' la fortuna degli speaker, che potrebbero dire qualsiasi cosa, però avendo una voce magnifica e un'impostazione straordinaria come Alessandra De Luca, potrebbero leggere qualsiasi cosa. Poi lei si ferma e dice: ma che vuol dire sta roba? Allora capisci che è una persona normale, è una persona comune, però potrebbero davvero leggere anche cose non in italiano, in una lingua inventata, un gramlo qualunque, e sarebbero magnifiche. 16:37 minuti, Radio 24, voi siete qui, continuiamo a raccontare in vari modi la storia di Laura che parla di campeggio. Abbiamo pensato che era un venerdì di fine giugno e che ci stava magari, immaginando le persone che cominciavano, perché noi ragioniamo per immaginare, diciamo, abbastanza privi di fantasia, no? Noi quando facciamo la riunione di redazione, escludo Margherita Ina che è presente, ma diciamo è quella con il maggiore contributo di fantasia di tutti quanti, io e Bonini ci guardiamo e diciamo: è venerdì, mettiamo una bella puntata in cui si parla di qualcosa di aperto, di estivo, perché è giugno, magari le persone sono in automobile e stanno andando in campeggio. Ecco, questo giusto per dirvi qual è il livello che tocchiamo durante la riunione di redazione del martedì pomeriggio qui a Voi Siete Qui. Quindi vi immaginavamo tutti quanti in automobile alle 16:38 oggi 21 giugno 2013 sull'autostrada con la vostra tenda sul tetto o dietro nel bagagliaio per andare in campeggio. Quindi abbiamo raccontato la storia di Laura. Io ringrazio quelli che in qualche modo appoggiano la mia avversione nei confronti del campeggio. È arrivato un messaggio di non so chi, perché il suo nome su Facebook è Mercatino del libro: odio il campeggio, adoro le vacanze comode, anche se fare passeggiata all'aria aperta è piacevole, adoro le città con i teatri, cinema, librerie, musei e spazi meravigliosamente chiusi. E invece Bruno mi dice: ciabatte per la doccia. Questo è uno di quei messaggi che hanno un'intenzione proprio, cioè sono scritti già con un'intonazione nelle parole: ciabatte per la doccia. Se questa è la prima preoccupazione dell'andare in campeggio, ti consiglio la pensione Luisella. Con affetto, Bruno. Guarda, Bruno, e con tutto l'affetto possibile io accetto la pensione Luisella tutta la vita. Non so dove sia la pensione Luisella, ma se esiste una qualunque pensione Luisella in giro, adesso la cercherò. Se esistono ancora delle pensioni in giro per l'Italia, la cercherò e la prenoto. Esiste tipo un pensioni. Perché esistono bedandbreakfast.it, agriturismi.it? Non so se esistono però pensioni.it. Forse Booking dovrebbe farci un pensiero. Abbiamo avuto un ascoltatore, Margherita, che lavorava per Booking, ti ricordi? Quello che stava in Olanda. Quel ragazzo che stava in Olanda e lavorava per... Vabbè, stiamo facendo pubblicità così a muzzo, quindi possiamo anche andare avanti. Perché, ripeto, in questa enfasi di fantasia e di istinto che abbiamo quando pensiamo alle puntate, noi ci siamo detti: parliamo di campeggio, ok? La prima cosa da fare per andare in campeggio è avere una tenda. Ma la prima cosa da fare è saperla montare, una tenda. È vero che ormai ci sono le tende che le lanci e si aprono, no? Poi il casino, occhio, perché il casino con quale chiuderle, eh? Perché una volta io l'ho presa per andare a fare non tanto il campeggio, ma la roba in spiaggia. Già, prendiamo quella che la lanci e si apre. Sì, poi chiudila. L'abbiamo spezzata per chiuderla, quindi l'abbiamo chiusa, ma a quel punto era inutilizzabile. Vi dicevo, la prima cosa da fare è saperla montare, una tenda. E come, dov'è che si va? Adesso sì, digiti su Google montare tenda e lo trovi. Ma dove? La Bibbia su cui ognuno di noi, quantomeno anche se non ha fatto lo scout, ha imparato a montare la tenda, qual è? È il manuale delle giovani marmotte. Il primo pensiero, quando si va al campeggio, è quello di rizzare la tenda. Dato che essa dovrà servire da riparo per la notte e per il giorno, in caso di maltempo, sarà bene rizzarla con cura, a scanso di crolli o di cedimenti, infiltrazioni d'acqua, d'aria e di animali. Innanzitutto, dove rizzarla? Allora, mai presso un corso d'acqua o sul fondo di una vallata o troppo esposta ai venti. Scovate il posto adatto, che dovrà essere bene in piano. A questo punto si parte. 1. Si ripulisce con cura il terreno. 2. Si scioglie la tenda. 3. Si rizzano i sostegni principali, quelli anteriori e quelli posteriori. 4. Si conficcano in terra i cavicchi esterni. 5. Facendo scorrere la corda attorno ai cavicchi resistabili, se il terreno è friabile da un sasso, fate come mostra la figura 2 o attorno a un pezzo di legno opportunamente interrato. 6. Si stendono le corde posteriori e anteriori. 7. si fissano i cavicchi interni assicurando i lembi inferiori della tenda. Tutto intorno alla base si scava un canaletto per lo scolo dell'acqua in caso di pioggia e si coprono i lembi inferiori con della terra per evitare infiltrazioni d'aria. Non accendete mai il fuoco troppo vicino alla tenda. Anni 90, Olanda, mai montato una tenda, dopo due ore un gruppo di ragazzini di circa 12 anni arriva, ride e in 10 minuti ci montano la tenda. Ma anche il messaggio di Mirko, direi, è il messaggio più stizzito contro il campeggio. Secco e stizzito, non capisco l'idea di condividere la toilette con degli sconosciuti. Sono le 16:44 minuti ed è così che voglio immaginarvi sull'autostrada o magari già arrivati con la vostra tenda sperando di passare un fine settimana il più godibile possibile questo 21 di giugno, e poi vi aspetto per l'ultima settimana di diretta di Voi Siete Qui, ma soprattutto giovedì alle 21 qui dalla Via Monterosa 91, dalla sede di Radio 24, per il live di chiusura della stagione. Scaricate l'ebook se ci avete tempo e se ci avete voglia dal sito di Radio 24 alla nostra pagina. Grazie a Gianmarco Ferronato, grazie a Margherita Ina e a Tiziano Bonini. La storia di oggi è la di Laura e anche lei è un punto rosso su una mappa. Il mio nome è Paolo, vivo a St. Gallen in Svizzera. La storia di lunedì è la mia e parla di un incontro speciale che mi è successo durante un viaggio in Giappone. Questa è la mia storia e io sono qui.